24 mattino. Ma se è come un'influenza e non fa morti più di tanto, perché tutta questa attenzione, tutta questa preoccupazione, tutta questa paura del coronavirus? Volevo chiedere gentilmente a tutti i politici, destra, sinistra, centrodestra, centrosinistra, partitini, partitelli, di tacere, perché questo è il momento del silenzio. Grazie. Oh, le vostre voci. Sulla questione della mortalità, abbiamo risposto prima, ha risposto Fabrizio Pregliasco, in realtà la mortalità è più alta e quindi, insomma, attenzione. È la seconda parte di 24 mattino, di questo lunedì 24 febbraio, sono le 7:19 minuti e 30 secondi, è la parte dedicata, come ben sapete, alla rassegna stampa, mentre ci mandate anche foto di strade deserte in Veneto, dove normalmente c'è traffico, ci scrive un ascoltatore da Padova. La situazione è questa e a questo dedicheremo un pezzo importante di questa rassegna stampa, non facendo mancare però anche qualche altro elemento, perché ci sono altre cose che si muovono nel paese e fuori e che non riguardano solamente il coronavirus e questa situazione complessa che domina, come prevedibile, le pagine dei quotidiani. Con tante domande anche sul fronte politico, insomma, se queste misure di prevenzione estrema che sono state prese dalle regioni di concerto con il Ministero della Salute siano giuste oppure no, se la gestione fino adesso sia stata corretta oppure no. Mezza Italia in quarantena è il titolo della Repubblica. Siamo un'emergenza, Europa pronta a intervenire, scrive il quotidiano. Tutto il nord ostaggio del virus, titola La Stampa. Virus al nord, chiusure e blocchi, più freddamente il Corriere della Sera, con stop a scuole, musei, cinema e pub. Milano chiude, l'Austria ci blocca, il titolo del Messaggero. Questo perché Vienna ha fermato i treni italiani al confine, poi in realtà li ha fatti ripartire. L'Italia è terza al mondo per contagi, è il titolo del quotidiano nazionale. E poi titoli un po' più caratterizzati dal punto di vista politico, no? Accogliamo tutti, anche il virus, è il titolo di Libero, follia del governo progressista. Incapaci al governo è quello della verità, il coronavirus fa il terzo morto, i contagiati sono oltre 150. Coprifuoco è l'apertura del giornale. Nord come in guerra, chiuse scuole, Duomo di Milano, serrata dei locali alle 18. È l'ora dello sciacallo, è il titolo del Fatto Quotidiano. Salvini contro il governo, Conte che dice non mi risponde, Meloni e Berlusconi invece sì, in merito alla telefonata che Conte ha fatto. Il Sole 24 Ore del lunedì, ampio spazio agli effetti economici, il virus globale scuote i mercati, dall'auto al lusso, la crisi in 18 aree. E poi la Gazzetta dello Sport, anche qua, scudetto in quarantena, campionato nel caos, forse Juve-Inter senza pubblico, fino a domenica sport soltanto a porte chiuse, poi i genitori di figli che, insomma, che fanno attività sportive lo sanno, questo fine settimana in zona... Niente campionati, che a volte è anche una liberazione, a dire il vero. E quindi nessuno accompagno ai campi, vai, torna, riporta, riprendi, e niente allenamenti. Iniziamo, prima ancora di andare alle cronache dal coronavirus, molte storie, poi con Paolo Mieli approfondiremo anche la parte politica e poi dedicheremo anche una parte della rassegna stampa al resto, per darvi un'idea di un mondo che non si ferma, o meglio di un'Italia che non si ferma là, non si ferma a questa vicenda, solo due storie vi voglio segnalare, ve le segnalo molto rapidamente. A pagina 14 del Messaggero, con Michele Allegri ed Emiliano Bernardini, il racconto di un'altra giornata di delirio dovuta al tifo calcistico. Bus in fiamme sulla A16 e l'allarme del Viminale. Cosa è successo? Sulla Napoli-Canosa, ultra del Bari hanno aggredito i sostenitori del Lecce e hanno dato fuoco al loro pullman, e a bordo del pullman c'erano anche dei bambini. Erano i tifosi del Lecce diretti all'Olimpico, nella capitale, per la partita contro la Roma. Questi tifosi del Bari si accorgono che ci sono dei tifosi leccesi là sopra, prendono, accerchiano il pullman e gli danno fuoco, a bordo anche dei bambini. Qua il tema è che il Viminale ha alzato la soglia di attenzione. Anche alla luce dei fatti avvenuti un mese fa a Potenza, dopo una partita di campionati minori, un tifoso del Rio Nero, Fabio Tucciarello, è stato investito e ucciso da un'auto, lo ricorderete, guidata da un supporter della squadra rivale, che ora è accusato di omicidio. E proprio per questo il Viminale ha deciso di alzare il livello di guardia. E l'altra cosa che vi voglio segnalare, perché è un tema sul quale siamo tornati spesso e sul quale ritorneremo, a pagina 24 del quotidiano La Repubblica: l'inchiesta sul sisma di Amatrice. Inventi verso il processo per le casette del terremoto che stanno già marcendo. Insomma, vicenda tipicamente italiana: si fanno le cose, non si fanno bene, si fanno male, come in questo caso, e dunque le casette stanno già marcendo. E il quotidiano La Repubblica ci porta nelle stanze di Giovanni Legnini, già vicepresidente del CSM, che è l'uomo nominato appena nuovo commissario per la ricostruzione, ha visto i numeri e pare che si sia messo le mani nei capelli, racconta Giuliano Foschini. Più di 40.000 persone sono ancora fuori casa, un terzo delle macerie pubbliche è per terra, quelle private praticamente non sono quasi mai state toccate, tutto questo dal sisma del 2016. Due sottolineature che mi parevano necessarie. Veniamo alle cronache dal coronavirus. Beh, i giornali ne sono pieni, ovviamente, potete ben immaginare. Andiamo sul Corriere della Sera, pagina 7, che riassume un po' le misure e quello che sta succedendo nelle aree del paese, quelle del Lodigiano. Abbiamo sentito prima i due sindaci, se poi volete andare a risentirvi il podcast, che ci raccontano un po' di cose. Abbiamo sentito anche tre esperti, tre virologi, così avete anche un po' di risposte alle vostre domande. Il podcast di stamattina, abbiamo fatto uno speciale a partire dalle 6:15. 500 agenti per 43 varchi, così la blindatura delle zone rosse, raccontata dal Corriere della Sera a pagina 7. Le aree dove vivono persone risultate positive al test devono essere isolate, si creano quindi zone rosse sottoposte a controlli dalle forze dell'ordine. I farmaci verranno ricavati in corridoi sterili controllati dalle forze dell'ordine per far passare i fornitori. Nelle zone rosse non possono arrivare da fuori treni o altri mezzi pubblici e sarà limitata la circolazione interna. Nelle aree colpite dal virus le autorità devono provvedere a emanare ordinanze per chiusura temporanea di scuole, uffici pubblici, stazioni di treni e tram, carcere e multa per i trasgressori. E dunque l'espressione utilizzata dal giornale, per quanto forte nel titolo di apertura, il coprifuoco, beh, insomma, è qualcosa che ci si avvicina molto. E altre storie ci vengono raccontate dal quotidiano La Repubblica, siamo a pagina 7, è quello che succede all'interno degli uffici, no? Racconta Aldo Fontanarosa. Lavorare nei giorni del coronavirus, lavorare dove è ancora possibile. Migliaia di dipendenti, professionisti, funzionari pubblici fronteggiano le misure straordinarie che imprese e uffici mettono in campo. Nelle zone a rischio, nelle aree vicine, c'è chi abbassa la saracinesca e chiude, chi organizza una distribuzione di mascherine. Ci sono aziende che incoraggiano a lavorare da casa. Chissà quanti di voi, cari ascoltatori, normalmente oggi sono in macchina, magari sono già arrivati al lavoro, e invece oggi chissà se state a casa oppure no. Intanto concorsi pubblici attesi da anni sono rinviati a Roma. Tutte le multinazionali di Milano e dell'Interland sono in allerta: A2A, IBM, Eni, Saipem, Pirelli, Salini Impregilo, PwC, Luxottica, Banche Comuni Credit, scrivono ai lavoratori dei comuni del Lodigiano focolaio dell'infezione, ma ovviamente non solo a quelli, come è chiaro, per dirgli, insomma, se potete stare a casa, stateci. E poi c'è tutta la questione dei beni ormai considerati di prima necessità. Beh, allora, quelli di vera prima necessità, abbiamo visto le scene, francamente quasi da da assedio, no? Tutti questi scaffali che vengono ripuliti dalle persone perché temono la quarantena, temono di dover rimanere chiuse in casa e quindi vanno nei supermercati. A Milano si è viste, sono viste, sono circolate su Twitter foto di tutti i tipi di supermercati letteralmente svuotati, eh? Curiosamente abbiamo visto una foto nella quale venivano svuotati di tutta la pasta tranne un tipo o una marca, evidentemente, no? Sono marche o tipi di pasta che non piacciono nemmeno in situazioni che si considerano di emergenza. E poi, come si diceva, i generi adesso considerati di prima necessità, le mascherine. Tutto esaurito nelle città e nei negozi online. È l'ora degli speculatori, ci racconta Sebastiano Messina a pagina 13 del quotidiano La Repubblica. E ieri avrete visto, no, un po', se frequentate i social network, un po' di polemica su Amazon. Amazon che in realtà non è lei, non è Amazon che decide i prezzi in certi casi, ma sono i rivenditori che passano tramite Amazon. E quindi abbiamo visto addirittura bottigliette di amuchina, di, insomma, di disinfettante per le mani a 90 euro, c'era scritto ne rimangono solo 4. Quindi i prezzi di igienizzanti e mascherine, racconta Sebastiano Messina, raggiungono livelli astronomici, aumenti dal 600 al 1700%. L'abitudine appunto di fare le scorte, di girare con le mascherine eccetera eccetera, che nasce insomma, che abbiamo visto spesso in Giappone, per chiunque abbia il raffreddore diventa un'abitudine di tutti. Tra l'altro, con gli esperti che ribadiscono, racconta Messina, che le mascherine servono a poche persone, servono sostanzialmente a quelli che il virus già ce l'hanno. Ancora cronaca dal Corriere della Sera, pagina 4, che fa un po' un punto sull'epidemia. I morti salgono a 3, più di 150 casi, contagi raddoppiati in un giorno. Sono 153 le persone positive al coronavirus in Italia, comprese le 3 vittime, 2 in Lombardia, 1 in Veneto. Sono 116 in Lombardia, ovviamente in gran parte concentrati proprio in quell'area. Sono 49 nella provincia di Lodi, e qua c'è un'ottima mappa, no? Che ci dà un po' la misura effettivamente di come i casi siano concentrati proprio là, in quell'area. 3 a Bergamo, 36 che sono in corso di verifica, non si sa esattamente dove, 3 a Milano, 6 a Pavia, 14 a Cremona, 19 nel Padovano, quindi ci spostiamo in Veneto. Ce ne sono 6 in provincia di Venezia, 3 a Torino, 3 a Roma, 2 guariti, 1 in via di guarigione, che però sono esclusi dal conteggio totale. Ci fermiamo, una pausa, sempre 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, e poi andiamo con Paolo Mieli alla parte più politica di questo coronavirus, tra gli scambi di accuse, gli scontri e anche le perplessità sulla gestione dell'emergenza. Tra poco. Mattino. Ed eccoci di nuovo, le 7:36 minuti e 25 secondi. All'ascoltatore che ci dice, per ascoltare il podcast che abbiamo fatto questa mattina sul coronavirus, se lo trova già adesso, lo trova sotto la voce di 24 Mattino, è già là sul sito di Radio 24, oppure tramite una delle applicazioni che possiamo utilizzare per ascoltare i podcast, a seconda del dispositivo del quale dispone, se è iOS, Android, insomma ci sono applicazioni specifiche, iOS a quella integrata naturalmente. E a proposito delle strade vuote, un ascoltatore ci ha mandato la foto di strade vuote poco fa, mi ha scritto invece un'amica dal Veneto, dalla A4, A4 solito casin de camion, mi ha scritto dal Veneto. Va bene. Molti altri ci dicono: noi in zona gialla, un ascoltatore dice: noi in zona gialla, a ridosso della rossa, stiamo facendo quarantena volontaria, perché il senso civico in Lombardia non manca. Paolo Mieli, caro direttore, buongiorno, eccoci. Buongiorno, buongiorno. Allora, con una rassegna stampa, almeno una gran parte della rassegna stampa, ovviamente dedicata a quello che sta succedendo al nord, nella prima parte ci siamo occupati della parte un po' più specifica di cronaca, tra i rialzi dei prezzi di mascherine e disinfettanti, l'assalto ai supermercati, la chiusura delle zone. Con te vorrei andare sulla parte un po' più politica, no? E qualche giornale già stamattina, e già dalle aperture, dà una lettura dal lato politico di quello che sta succedendo, da Libero alla Verità, che parla di incapaci al governo, il Fatto Quotidiano che parla dell'ora dello sciacallo, il Giornale che parla di coprifuoco. Di certo il tema della gestione dell'emergenza, o quantomeno della presunta emergenza, sta già diventando un tema politico, no? Sì, era inevitabile, anche se nei toni mi sembra che tutti si vadano calmando, soprattutto dopo l'appello del Capo dello Stato, che Mattarella, che ha detto, mi raccomando, qui ci vuole unità, e nessuno ha premuto più di tanto l'acceleratore, anzi il Presidente Consiglio si è messo in contatto sia con Berlusconi che con la Meloni. Dice che Salvini non l'ha trovato. Salvini ha detto: io parlo attraverso i governatori delle regioni da me governate, cioè governate della Lega. Sì, torna questo termine, cioè Salvini accusa sostanzialmente il governo di aver ritardato, di essere in ritardo rispetto a un allarme ben più preciso lanciato dalle regioni, sì, del nord già un mese fa, sì, e gli altri gli rispondono dicendo: sei uno sciacallo, come, sì, un untore, come dice il ministro Boccia oggi sulla stampa in un'intervista, appunto adesso in questi giorni non sono firmati i giornali, le interviste sulla stampa, negli, sì, articoli, perché sono una sorta di sciopero bianco. E come si chiamano, gli scienziati dicono sostanzialmente che ha ragione, hanno ragione i governatori del nord, nel senso che si doveva, cioè che un di più di misure precauzionali sarebbe stato male, sarebbe stato meglio. Dall'altra parte però ti segnalo, Paolo, proprio dalla stampa a pagina 10, beh, c'è già una sorta di risposta che arriva dal Presidente del Consiglio Conte, il quale fa sapere che c'è stata una falla nella prevenzione e nel mirino sarebbe la sanità lombarda, e quindi, vero, la gestione un po' di quella che è stata la gestione da parte appunto della regione Lombardia. Mi sembra che poi l'attenzione si stia finalmente concentrando sul tema che tanto avevamo discusso, del blocco dei voli. Qualcuno l'aveva già detto che era stato un errore bloccare i voli diretti dalla Cina, perché avrebbe reso tutto meno controllabile. Oggi sui giornali troviamo gente che lo ribadisce. Beh, questo è innegabile. Il fatto di aver bloccato dei voli significa non tanto il blocco dei voli, che chi veniva dalla Cina, e noi stiamo parlando non di cinesi ma anche di occidentali, di europei che tornavano dalla Cina passando per delle mete intermedie, non è rintracciabile, non è facilmente rintracciabile, sarebbe stato meglio, però io parlo col senno del poi, lasciare i voli, prendere tutti coloro che sbarcavano, ripeto, non solo i cinesi, ma occidentali e cinesi o chiunque sbarcasse da quei voli, metterlo in quarantena, e oggi sarebbe tutto più semplice. Però adesso non è il momento di fare un bilancio, perché noi non ne sappiamo ancora nulla, io poi non sono né io né te, siamo scienziati, sì, quindi certo, è inutile parlare a vanvera. È sicuro che c'è stata una sottovalutazione iniziale, e che non è poi responsabilità della politica, perché giustamente Conte dice: ma noi abbiamo un comitato tecnico scientifico che ci dà delle indicazioni e a quelle ci atteniamo. Sì. E questo è il momento di rispondere responsabilmente agli appelli, e gli appelli a questo punto sono ispirati a quel primo appello delle regioni del nord, cioè stare più a casa possibile, non fare nessun tipo di manifestazione. A sì. proposito di questo, ho visto su Repubblica che la direttrice artistica del Franco Parenti, in un articolo di Valeria Cerabolini, si chiama Andrea Lucciambà, dice ma il teatro in questi momenti consola, capisco benissimo, sì. Però, sì. Però forse deve farsi una ragione anche Andrea Lucciambà, sì. ottima imprenditrice teatrale, che per, almeno per alcuni giorni, se i teatri e i cinema rimangono vuoti è meglio. Sì. Tutto questo ovviamente ha un riflesso sull'economia. Sì. Ben fatto il suo prima, permettimi solo una cosa, Paolo. Prima di andare al riflesso sull'economia, c'è anche in quest'ambito, no, di comunicazione complessa e anche di divisioni politiche, un po' ci si mettono anche i virologi. Sui giornali si trova traccia di questo scontro tra Burioni e la direttrice del Sacco. Sì, la direttrice del Sacco si chiama Maria Rita Gismondo, e, che dirige il reparto di diagnostica dell'ospedale Sacco di Milano, intervistata da Brunella Giovara su Repubblica, dice ma questa non è una pandemia, è solo un'influenza un po' più seria. Burioni, la Capua, tutti gli altri, devo dire lei è isolata a dire che questa è una sì. forma di influenza, l'influenza fa molte più vittime di questa coronavirus, di questo coronavirus, e gli altri però Burioni dicono che non è, che sono cose dette un po' così tanto per dire, loro dicono anche di una scemenza gigantesca, e non si devono trattare le persone come bimbi di 5 anni, siccome Burioni e la Capua tra l'altro costretta sì. a emigrare in America per una vicenda, la storia la conosciamo, la stiamo certamente a raccontare, e loro ci dicono guardate, prendete queste misure precauzionali, fate fare la quarantena a più persone possibile, esaminatene il più possibile, perché il fatto che l'Italia sia il terzo paese al mondo per quantità di contagiati ci dice che non è il caso di sottovalutare sì. questo fenomeno. Ascolta, dicevamo l'aspetto economico, no? Il virus globale che scuote i mercati, come scrive il Sole 24 Ore, dall'auto all'uso, la crisi in 18 aree, e punto per punto, a pagina 2, a pagina 3, a partire dal pezzo firmato da Moria Longo, passando per quello di Riccardo Barlam, corrispondente da New York, poi punto per punto in uno schema ci sono, no, i singoli settori e quello che rischiano di soffrire a causa del coronavirus. Guarda, la cosa che mi ha colpito in queste pagine molto molto ben fatte e raccomandabili del Sole 24 Ore sono che è previsto un calo dei beni strumentali nel settore aereo e logistica, e poi nel settore minerario, nel petrolio e nel gas, ma mi ha incuriosito che è previsto un aumento, che le cose vanno leggermente meglio, nell'auto, pur in presenza di un calo delle vendite, sono contrassegnati col segno verde, nella tecnologia e hardware, la produzione di smartphone, e poi in internet e nell'e-commerce, è ovvio, e nei pagamenti digitali, cioè è un momento di trionfo di internet e del digitale, ovviamente sono cose che si possono fare da casa senza andare in posti affollati, ma chi è interessato sul Sole 24 Ore oggi può vedersela settore per settore. Allora, posso dire, prego. Un'ultima cosa, tutti i giornali si allarmano perché l'Austria ha fermato un treno dall'Italia, è incredibile, costretti a scendere, sto leggendo da un articolo sul Corriere della Sera. Anche su questo bisogna essere più sereni, se ci saranno delle scomodità. Se l'Austria fosse il paese più contagiato, potrebbe capitare che l'Italia fermi un treno che viene dall'Austria. È normale che adesso ci saranno delle attenzioni, come ci sono state nei confronti della Corea, che è stato il paese più contagiato dopo la Cina. Sì, segnalo come informazione di servizio che tra l'altro alla mezzanotte di ieri l'azienda che si occupa del trasporto ferroviario in Austria ha detto che il blocco è revocato, cioè c'è stato un blocco momentaneo che riguardava due persone con la febbre, si riteneva fossero contagiate e via dicendo. Adesso il blocco è revocato, chi vuol viaggiare può viaggiare tranquillamente, dicono, e dicono a chi invece ha comprato un biglietto dall'Austria all'Italia, appunto, che può farsi rifondere eventualmente dalle ferrovie austriache, riguarda prevalentemente gli austriaci, un po' meno noi. Una pausa e il traffico, ci ritroviamo tra un attimo. Molte domande stanno arrivando, poi più avanti alle 8:20 con Maria Latella torneremo a parlare della questione del coronavirus tra le domande che ci arrivano, ma non è che siamo due lo chiedono, non è che siamo il paese con il maggior numero di contagiati perché siamo quelli che stanno facendo più verifiche, è quello che ha sostenuto nelle scorse ore Ilaria Capua, appunto la già citata Ilaria Capua, e comunque torneremo a parlarne alle 8:20. Intanto prendiamo un attimo di respiro. Può darsi che siamo i più contagiati, però lo stesso avere delle misure preventive ulteriori non fa danno, insomma, sì. Una o due settimane di allarme, ammesso che siano una o due, che il contagio non si estenda, è la soluzione migliore. Se capitasse in Francia, che è il paese più contagiato, anche noi faremmo bene a estendere queste misure. Del resto in Italia anche le regioni del sud, che per il momento non sono contagiate, stanno prendendo delle misure preventive, secondo me fanno benissimo. Fammi dire a me due cose: una, che a Pozzallo sono sbarcati 276 migranti e non erano affetti da coronavirus, li hanno messi in quarantena, Salvini ne ha fatto un argomento di polemica, e poi io, sai che è una mia fissa, non potevano mancare le sardine. Ah sì, anche le sardine sono intervenute sul coronavirus. Le sardine intervenute, hanno detto che l'unica maschera, sono andate a Viareggio a perseguitare Salvini, così dice il titolo del giornale, insomma, a tallonare Salvini, e hanno detto che l'unica cosa utile è la mascherina e la cultura. Interessante teoria, che con la cultura si previene il Covid-19. Senti, abbiamo ancora pochi minuti per qualche altro argomento, a partire dal Papa, direi, che insomma in tutta questa confusione sono passate un po' sotto traccia le parole a Bari del Papa, che sono delle parole importanti perché è durissimo con i cosiddetti sovranisti. Con Salvini, dai. Sì, dai, con diciamo, i sovranisti. Dice: fanno paura, evocano gli anni 30, si è abbracciato con Mattarella, era Bari, come hai appena ricordato, l'articolo di Gian Guido Vecchi sul Corriere della Sera, evocano gli anni 30, vuol dire sono come Hitler e Mussolini. Il Libero è polemicissimo, il Papa tace sui malati ma picchia sempre sui sovranisti, Bergoglio a Bari snobba la crisi sanitaria in corso e si concentra sul suo tema preferito, paragonare Salvini e Meloni ai nazisti, l'articolo di Francesco Borgonovo. Altro tema, visto che mi porti ai temi diversi delle sardine, gli Stati Uniti, enorme successo, bravo, di Sanders negli Stati Uniti, ha vinto, stravinto questa volta nel Nevada, ormai Bloomberg, che è lo sfidante all'interno dei democratici, dovrà vedersela con lui, e i giornali sono pieni di analisi, perché l'ultima volta che si presentò un candidato di sinistra fu nel 1972, George McGovern, e prese una legnata pazzesca da Nixon, e i giornali si domandano se Bernie Sanders non sarà come il Corbyn americano, dubbi sul candidato troppo di sinistra. Senti Paolo, c'è una storia curiosa su Repubblica che ha a che fare con un'ambasciata che troviamo appunto sul giornale La Repubblica. Che storia è? Perché insomma mi ha colpito. C'è una lite attorno all'ambasciatore. Ma la cosa curiosa è che il tema, credo che avrà colpito anche te, è che ci sono dei fantasmi in ambasciata. L'ambasciata afghana a Roma, l'ambasciata afghana, gli acchiappa fantasmi e l'ambasciatrice, mistero tra Roma e Kabul, è il titolo a pagina 23 della Repubblica. Questa, se non ci fosse il coronavirus, sarebbe stato il primo articolo che ti avrei citato, perché anch'io sono stato attratto da questa storia e viene presa sul serio, nel senso che il governo di Kabul dice no, qua nell'ambasciata a Roma ci sono i fantasmi, non si può vivere. Probabilmente saranno degli strumenti per intercettare gli afghani, i diplomatici afghani, non so messi da chi, escluderei dagli italiani, che sono stati scambiati per fantasmi, ma questi si svegliano di notte e sentono rumori di fantasmi. Curioso, molto curioso. Senti, cos'altro hai da segnalare su oggi? Una cosa che mi ha colpito è che, perché noi non dobbiamo mai perdere di vista le storie che ci hanno riguardato in passato, è che il pentito contro l'ex manager Autostrade, parlo sempre di Repubblica, per lui Rolex e soldi in cambio di appalti. Si profilano ulteriori guai per Michele Donferri Mittelli, l'ex capo delle manutenzioni di Autostrade per l'Italia, licenziato da ASPI alla fine di ottobre 2019 e il principale indagato nell'indagine sul crollo di Ponte Morandi. La Guardia di Finanza di Genova ha acquisito, su mandato della Procura genovese che indaga sul crollo di Morandi, i verbali del testimone di giustizia Gennaro Ciliberto, resi alla Procura di Roma nel 2013 nell'ambito di un'inchiesta sulle infiltrazioni camorristiche in lavori affidati a Autostrade per l'Italia. Ciliberto avrebbe chiamato in causa Mitelli, ritengo che abbia ricevuto regali costosi e somme di denaro. Allora, cosa che mi ha colpito? Sì. Che questa vicenda di Autostrade si sta complicando mentre noi siamo distratti, giustamente, lo sottolineo, del coronavirus, di aspetti strani, corruzione per chi doveva fare i controlli, 'ndrangheta. Insomma, stiamo attenti e non spegniamo mai il faro che c'è sulla vicenda Ponte Morandi, sì, e Autostrade, perché ci darà nuove sorprese. Grazie Paolo Mieli, anche per oggi ti ritroviamo come sempre mercoledì, GR24, a dopo con Maria Latella, torniamo a parlare di coronavirus anche con le vostre domande, a tra poco.